anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Siamo qui 7:20 minuti, buongiorno cari ascoltatori, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa dei giornali. Lo spazio della lettura degli approfondimenti di 24 mattino, caro Peter Pescapè, siamo pronti, andiamo, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, martedì 14 marzo, anche oggi in edicola non troverete il Sole 24 Ore per le vicende che sapete, che però hanno avuto un cambiamento abbastanza netto, visto che il direttore è stato messo in aspettativa, c'è un nuovo direttore ad interim, Guido Gentili, al Sole 24 Ore, per cui da domani si presume ci sarà nuovamente il Sole 24 Ore in edicola. Comunque oggi non lo trovate. E trovate gli altri giornali che aprono su cosa? Beh, l'attualità europea soprattutto è il titolo principale. Per il Corriere della Sera, Brexit, la Scozia sfida Londra. Anche Repubblica, Scozia al voto per restare in Europa, l'Unione Europea, l'Italia, manovra sia più pesante. La Stampa, Scozia e Turchia scosse per l'Europa. Il Messaggero, sia la Brexit, la Scozia non ci sta. Europa nella bufera è anche il titolo di Avvenire, qui si concentra più sul braccio di ferro tra Erdogan e l'Olanda, ma anche la Scozia e Londra. Poi altre aperture, il Partito dei Centri Sociali è il titolo del giornale, il Fatto Quotidiano invece ha un'intervista al presidente siriano Assad, per la Siria i diritti umani ora sono un lusso, questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Mentre Libero sentenzia, nei ministeri non fanno un tubo, i dipendenti stanno a casa un giorno su cinque. Per la Verità invece, decapitata la banca del Giglio Magico, ispezione di Banca Italia scopre nell'istituto, cioè la Chianti di Bini Smaghi, le stesse magagne di Montepaschi e Etruria, crediti Allegri e acquisizioni avventate. Mezzo consiglio di amministrazione si è dimesso. Io voglio partire però da quell'immagine. Certo, ci sono immagini che fanno discutere, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, foto che parlano, come scrive Il Giorno. Il fatto che dopo il dibattito, dopo la gran cagnara, dopo le grandi discussioni solite, quando ci sono i fatti di cronaca, l'ultima è stata la vicenda di DJ Fabo che è andato in Svizzera per il suicidio assistito. Che succede quando la legge sul biotestamento arriva alla Camera? Per carità, era la discussione generale. Non era il dibattimento che seguirà ora. 20 deputati presenti, una ventina, 17 per la verità. Puntuali interventi di 17 che non attenuano, scrive Il Giorno, la figuraccia degli onorevoli abbonati a lunedì lontano dall'aula. Sì, perché era anche lunedì. E allora tutti i giornali citano solo in 20 alla Camera per il fine vita. Biotestamento alla Camera, ma l'aula è vuota, questo è il titolo del Giorno. Fuga dal biotestamento è il titolo di Repubblica. Sono 22 i deputati, poi c'è, qui c'è la conta, chi dice 20, 18, 22. Questa è l'amarezza. Tra l'altro l'altra amarezza è che probabilmente passerà alla Camera e verrà arenata al Senato dalla fine della legislatura. E questa è un'altra questione molto molto interessante da far notare subito. Però vi voglio segnalare su questo, al di là della polemica, un qualcosa, parole che invece forse rimarranno nel cuore di chi le legge, comunque la pensiate, indipendentemente da come la pensiate. C'è una bella intervista al direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che ieri trovavamo sulla stampa per altri motivi, è Mario Melazzini, che dal 2003 è affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica. Realizza un'intervista Maria Novella De Luca con lui sul quotidiano Repubblica che vi voglio segnalare. Si parla di fine vita, pagina 7. C'è una vita oltre la SLA. Ecco perché ho detto no al suicidio in Svizzera. È quando ho deciso di fare un altro giro di giostra, come scriveva Terzani, che ho cancellato il mio appuntamento con la morte a Zurigo. Questo non vuol dire che non fossi e non sia tuttora arrabbiato con la mia malattia. Sono sempre più esausto. Ogni giorno i dolori peggiorano. Dipendo integralmente dagli altri, ma sono tenacemente innamorato della vita. E sulla terra, finché sarà possibile, ho intenzione di restare. Così inizia l'intervista Mario Melazzini, 59 anni, da 10 su una sedia a rotelle, direttore generale dell'AIFA. Dice: ho una forma di SLA molto lenta, non ho voglia di arrendermi, sono un po' come Stephen Hawking, l'astronomo. Ci siamo scritti, condivido il suo pensiero, in ogni giorno di vita c'è qualcosa da scoprire anche su una sedia a rotelle. La scienza progredisce. Per me essere nutrito con una pompa nella notte non è un atto medico, ma è appunto la vita, come per gli altri mangiare, bere. Per questo sono convinto che non si possano interrompere. Certo, io non giudico le altre scelte, non giudico nessuno, ma forse prima di parlare di testamento biologico bisognerebbe assicurare a tutti un vero accesso alle cure, sostegni alla famiglia, la medicina palliativa. La voglia di mollare nasce dall'abbandono del paziente. Ma anche lei era pronto al suicidio assistito. Sì, ma poi ho avuto paura. Del resto, quando il 17 gennaio 2003 un mio collega mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Melazzini, lei ha la SLA. Mi sono sentito come tutti i malati gravi, un naufrago disperato. Da medico sono diventato paziente, ho visto l'impotenza della medicina. E cosa ho fatto? Ero furibondo, incazzato nero. Mi sono preparato ad andare a morire in Svizzera e poi ho deviato. Sono andato a passare un anno da solo nella mia casa di montagna a Livigno. Io e il libro di Giobbe che mi aveva fatto un caro amico gesuita, padre Silvano Fausti. E non poteva più scalarle quelle montagne. Sì, e le guardavo da sotto in su e piangevo su me stesso, una rabbia sorda. E ci sono voluti mesi. Ma poi il mio sguardo è cambiato, ho capito che c'erano cose che non avrei potuto più fare, ma altrettante avrei potuto scoprirle. Ho cominciato, per esempio, a lottare per i diritti dei malati di SLA. E lei dice che il testamento biologico non è una priorità, però ha affermato che non accetterà mai una tracheotomia. È vero, e l'ho lasciato scritto nel mio computer, ma ho anche scritto che dovrà essere mia moglie a decidere. Mi manca non mangiare più per bocca e né bere. Mi concedo un cappuccino con l'addensante, ma mi manca il panino con la pancetta. Pazienza. Ne ho mangiati tanti, sono vivo e la vita è bella, non solo nei film. Beh, insomma, questa è una bella intervista, ecco, quella di Maria Novella De Luca a Mario Melazzini. La trovate su Repubblica a pagina 7. Per dibattere di queste tematiche. Io invece sono abbastanza basito, come tutti ho un'idea su questa vicenda che trovate su tutti i giornali. Vi ricordate la figlia dei genitori nonni, così li hanno definiti, una figlia avuta dai coniugi De Ambrosis quando lei aveva 57 anni e lui 69, una figlia naturale che ora viene tolta a loro, viene tolta definitivamente. La vicenda è una lunga vicenda giudiziaria che oggi ha il suo punto finale. La figlia dei genitori nonni verrà data in adozione. Diteci perché non siamo indegni. Tutto nacque quando, tra l'altro, un vicino di casa segnalò una sorta di abbandono perché erano andati a fare la spesa, stavano portando sulla spesa, l'hanno lasciata 5 minuti in macchina. Loro dicono il tempo di scaldare il latte. E furono denunciati per abbandono di minori e fu tolta loro la figlia, ma poi ci si concentrò subito sulla loro età. E adesso il tribunale, visto che è andata avanti tutta la vicenda, dicono: adesso è bene che rimanga con la famiglia che l'ha avuta in adozione, perché sono troppi gli anni di assenza dai loro genitori naturali. Cioè, una vicenda incredibile, questione di età, lo schiaffo ai genitori nonni, così vengono definiti, adozione per vostra figlia. Guardate qui il Giorno, il Corriere, respinto il ricorso dei genitori nonni, la piccola resta con la famiglia adottiva. Guardate Repubblica, la figlia dei genitori nonni in adozione, diteci perché non siamo indegni. La Stampa: viola ora un'altra famiglia, respinto il ricorso dei genitori nonni. Già definirli genitori nonni, sì, va bene l'età, però insomma, capito, questa etichetta, questo cliché sui giornali. E ora eccola qua, Giusy Fasano raccoglie la rabbia di Luigi e Gabriella. Luigi che piange, racconta di qualche ematoma che ha sul naso: è una cosa da niente, mi sono fatto male lavorando in campagna. Tempo, qualche giorno, e passerà questo dolore. Invece mi sa che quell'altro, cioè il fatto che ci hanno tolto una figlia, non passerà mai. I periti della corte hanno detto che siamo a posto, non abbiamo patologie, non siamo due genitori indegni, l'età non conta, conta l'amore che le avremmo dato. E invece la coppia, che non ha più contatti con la figlia da 4 anni e dice non ci arrendiamo, ma pare essere arrivati alla parola fine di questa vicenda, non potrà più, pare, rivedere la loro figlia. So, mi sembra una cosa, per carità, di un cinismo incredibile, pur non avendo seguito la vicenda passo passo nei tribunali, ma messa così mi sembra davvero di un cinismo impressionante. Va bene, siamo all'articolo che mi fa la giornata. Mani sul volante se siete alla guida, ancora una volta c'entrano le multe. Signori, cassa continua, pagina 2 e 3 del Giorno. Autovelox, Strisce Blu racconta, il Giorno con Matteo Palo: i comuni ormai campano con le multe. Sapete quante sono le entrate per Milano? 157 milioni in un anno, Roma 141, Torino 47,9, Firenze 35,7 milioni. Per carità, se uno parcheggia male deve pagare la multa, ma insomma voi tenete le mani sul volante. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Hello, this is George Clooney and this is my Shogi Lingua. How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Thank you and goodbye. Thank you, Mr. Clooney. Avete visto, noi abbiamo degli ascoltatori di livello internazionale, no? Ci seguite tanto dall'estero, anche George Clooney, a cui mandiamo davvero un grande abbraccio. Big hug for George Clooney. E a lei. Allora, signori, la politica, oggi non ci sono grandi articoli sulla politica, questo è un bene, sulla politica chiacchierata, c'è qualcosa, vabbè, vi segnalo che, come scrivono tutti i giornali, domani c'è il voto sulla proposta del Movimento 5 Stelle di delle dimissioni del ministro allo sport Luca Lotti, indagato nella vicenda Consip, ma visto che i numeri dovrebbero esserci già, però si pensa, e tutti sono concentrati su una nuova richiesta di sfiducia a Lotti, perché questa volta arriva dagli scissionisti del Partito Democratico, no? Dal Movimento Democratico e Progressista. Come racconta Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 9, il caso Lotti non finisce qui, non si chiuderà domani con la scontata bocciatura al Senato della mozione di sfiducia grillina. Ci pensano proprio gli ex compagni del ministro allo sport, i bersaniani, a tenerlo sulla graticola con una nuova mozione per chiedere le dimissioni o la revoca delle deleghe. Il primo round domani andrà a favore di Lotti e del governo, ma la ferita dentro la maggioranza resta aperta. Dunque la sinistra presenta un'altra mozione, visto che domani già è abbastanza scontato il voto. C'è, per la verità, forse l'intervista più importante riguarda il centrodestra oggi sui giornali, perché Marco Cremonesi intervista Umberto Bossi. È vero che Umberto Bossi per la Lega non ha più il seguito di prima, adesso la Lega è di Salvini, ma Umberto Bossi non le manda proprio dire a Matteo Salvini sul Corriere della Sera: la Lega Nazionale morirà, Salvini al Sud crea solo caos, di voti non ne prenderà. Cosa vai lì a fare a Napoli? A portare soldi? A promettere una nuova cassa per il mezzogiorno? Al sud la gente non dice guarda come è cambiata la Lega, dirà guarda che casino quando viene la Lega, meglio che se ne resti lassù. Questa è la posizione di Bossi, che poi dice, lei dice di avere un piano per ritornare alla Lega nordista. Qual è? Non glielo dico. Comunque la Lega mi pare abbastanza mal ridotta. Oh, è Umberto Bossi che parla, Rischia di non salvarsi. Prima il Nord votava la Lega perché era il partito del Nord, la votava anche se non era d'accordo. La Lega è nata per la libertà del Nord, non diventerà un'altra cosa raccattando i voti di quattro fascistoni, che tra l'altro sono voti che nessuno vuole e con cui non fai nulla. E poi Bossi critica anche l'uscita dall'euro, per gli sprovveduti è l'uscita dall'euro. Se venisse giù l'euro verrebbe giù tutto, una situazione che nessuno saprebbe gestire. Pagheremmo di più per le materie prime, cosa che per un paese in trasformazione come l'Italia sarebbe un disastro. Berlusconi parla di doppia moneta, che è una presa per il culo, ma non è che Berlusconi non sia in grado di capire le cose. Insomma, Umberto Bossi che attacca a tutto tondo. Però l'ultima domanda è questa: c'è stato un problema le inchieste in tribunale? Rosi Mauro, ve la ricordate, della Lega, ha detto che il vostro ex tesoriere Belsito le aveva riferito di investimenti in Tanzania. Davvero? Io della Tanzania ho saputo dai giornali. Ho chiesto a Roberto Castelli, che era presidente del nostro comitato di controllo, lui mi ha detto che non lo sapeva perché Belsito aveva smesso di trasmettere i documenti. Poi mi ha chiamato Belsito, io gli ho detto che quell'investimento doveva rientrare entro 10 giorni oppure era fuori. Questa è la versione bossiana che dunque attacca molto Salvini. In tutto c'è un'intervista anche che vi segnalo da New York di Paolo Mastrolilli a Maria Elena Boschi. La trovate sulla Stampa e il titolo è questo: il no al referendum è stata un'occasione persa per i diritti delle donne. Così Maria Elena Boschi, e spiega perché. La riforma portava il mio nome, ho sicuramente contribuito a portarla avanti, ma non era solo la mia riforma, era il risultato del lavoro di tante donne e tanti uomini. Mi spiace perché conteneva anche l'introduzione della parità nella rappresentanza parlamentare. Penso che anche questo fosse un buon motivo per sostenerla. E dunque, ecco qui, c'era la parità di genere e dunque il no al referendum per Maria Elena Boschi è stata anche un'occasione persa per i diritti delle donne. La Boschi a New York, anche la Raggi, sindaco di Roma, oggi volerà a New York, sempre che non ci sia la tempesta di neve in arrivo a New York a bloccare tutto. La cosa interessante, questo almeno secondo il Corriere della Sera, Emanuele Buzzi a pagina 12, è che Raggi andrà negli Stati Uniti e ci sono contatti tra gli staff per un incontro niente meno che con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Eccolo qua, Raggi, la missione americana, i contatti per un incontro con lo staff di Trump. Ah, ecco, non forse con Donald in persona, ma con lo staff. Comunque non è una novità che il movimento e l'amministrazione statunitense guidata da Trump si stiano osservando l'un l'altro da tempo. Pensate che definita la Trump di Roma, così Virginia Raggi, a definirla così è stato il sito americano della destra radicale, il cui ex direttore Steve Bannon ha coordinato la campagna elettorale di Donald Trump. Oggi è il consigliere più ascoltato del presidente americano. E dunque ecco perché l'occasione di un incontro con l'amministrazione statunitense non subirebbe uno stop, ma sarebbe solo rimandata, anche se ci fosse la questione della tempesta di neve. Ma insomma, secondo il Corriere ci potrebbe essere questo incontro. Invece apriamo il fronte europeo. Ci sono polemiche, ci sono situazioni difficili, ci sono tensioni. Intanto iniziamo da quello che ci riguarda più da vicino, i conti pubblici italiani. Oggi Repubblica con Alberto D'Argenio racconta il pressing dell'Unione Europea sull'Italia per una manovra bis blindata oppure restituite il fondo di flessibilità. Dobbiamo dare 3,4 miliardi. E allora, questo nella manovra bis, e si sa, sale la pressione, fa sapere Repubblica, sul governo Gentiloni per la manovra correttiva. Nelle scorse ore gli sherpa dei ministri europei, cioè coloro che insomma tengono i contatti dei ministri, hanno approvato l'opinione sui conti italiani che sarà sul tavolo dell'Eurogruppo il 20 marzo a Bruxelles. È un passo avanti verso la procedura di infrazione, una sorta di commissariamento sulla politica economica, un rischio per la tenuta del paese sui mercati, questo per Roma. E Roma potrà disinnescarla solo con un intervento credibile nel prossimo mese sui conti. Tanto più che ora a complicare le cose c'è un ulteriore tassello. Secondo il Comitato Economico e Finanziario, c'è il rischio che salti un pezzo della flessibilità, quella per gli investimenti concessa all'Italia nel 2016, una circostanza che farebbe traballare l'intera costruzione dei conti degli ultimi due anni e che nel peggiore degli scenari potrebbe portare alla richiesta di restituire lo 0,2% del PIL, altri 3,4 miliardi, o parte di essi per non finire in procedura. Questa è la linea dell'Unione Europea, secondo Repubblica, e a questa linea l'Italia avrebbe un mese per rispondere. Ma certo, oggi se si parla d'Europa, tutti i giornali raccontano della Brexit che torna sulle prime pagine dei giornali, perché per la decisione della Scozia, annunciata a sorpresa a Edimburgo dal primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, che ha annunciato l'intenzione di tenere un secondo referendum sull'indipendenza dopo quello del 2014 vinto dagli unionisti. E il calendario è significativo perché la nuova consultazione sull'indipendenza dovrebbe svolgersi tra l'autunno del 2018 e la primavera del 2019, ossia quando i termini della separazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea saranno abbastanza chiari. Questo almeno racconta e leggo dall'articolo di Luigi Ippolito a pagina 2 del Corriere della Sera. Eccolo qui: la Scozia chiama al referendum, la Brexit può spaccare il regno. La reazione di Theresa May, cioè premier britannico, è stata questa: la politica non è un gioco, è una visione profondamente riprovevole, quella dei nazionalisti, è una visione in grado di mettere la Scozia sulla via di una maggiore incertezza e divisione. Che succede ora? Innanzitutto il lancio della Brexit potrebbe slittare, ed è questa la prima primo punto sul quale il premier scozzese Nicola Sturgeon potrebbe puntare. E sapete che la Scozia, o meglio il premier la Sturgeon, è sempre stata contraria fin dal primo momento. E comunque è una forte tensione che c'è sul fronte europeo per quel che riguarda Brexit e Scozia-Gran Bretagna. Alessandro Milan, incredibile, il nostro Pellegatti dell'informazione, incredibile. va bene, basta, è finita Juve Milan. Al prossimo furto, alla prossima partita, dai, su, parliamone la prossima volta. Allora, la Turchia blocca l'ambasciatore olandese. Sapete che tra Turchia e Olanda è nata una crisi diplomatica vera e propria, dopo che a Rotterdam è stato negato al ministro turco di parlare, e ora la ritorsione della Turchia, che ha dato all'Olanda, ha definito l'Olanda un paese nazista addirittura attraverso il presidente turco Erdogan, e ora, racconta il Corriere, è la Turchia avere il coltello dalla parte del manico. L'accordo da 2 miliardi l'anno con l'Unione Europea per trattenere i rifugiati serve più agli europei che non ad Ankara. Così, dopo le raffiche del presidente Erdogan contro il governo olandese, nazisti, antidemocratici, cani, fascisti, così li ha definiti, è stato il moderato Ömer Çelik, ministro per i rapporti con l'Unione Europea, ad agitare lo spettro di un annullamento dell'accordo sui migranti. Dovremmo rivedere quell'intesa, lasciar passare la gente via terra, ha detto. Ecco la minaccia della Turchia. Insomma, il fronte turco è molto caldo. Se ci spostiamo un po' più a est e anche a sud, oggi troverete sia sul Fatto Quotidiano che su Avvenire due interviste a Bashar Assad, presidente della Siria. Come scrive Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, un incontro con Bashar Assad, un incontro anche non facile, scrive Feltri, per incontrare Bashar Assad si è dovuto unire a una delegazione di europarlamentari che sono andati in Siria a Damasco. Il titolo dell'intervista sul Fatto Quotidiano è molto dura: jihadisti, colpa dell'Europa, i diritti umani ora sono un lusso per la Siria. È un Assad che sul Fatto Quotidiano difende il ruolo della Russia. Stando ai fatti, dice, da quando i russi hanno cominciato i loro raid contro l'ISIS, coordinandosi con l'esercito siriano, l'ISIS ha iniziato ad arretrare. Prima c'era solo quella che veniva definita l'alleanza americana occidentale, un'alleanza di facciata, e l'ISIS si espandeva. si è iniziata a contestare il ruolo dei russi solo dopo che hanno iniziato ad avere successo sul terreno. Ma la Russia, con l'esercito siriano, ha avuto successo nel combattere i terroristi. E proprio questa è la priorità per Bashar al-Assad, che dice: il terrorismo da sconfiggere è la priorità. Tutto verrà dopo, anche la politica, le discussioni, anche le discussioni sui diritti umani. Oh, a proposito di terrorismo, il Messaggero dà una notizia che non è molto rassicurante. Riguarda, ricordate, Anis Amri, attentatore a Berlino, poi fuggito in Italia, ucciso da due poliziotti durante un fermo di polizia a Sesto San Giovanni. Cosa succede? Vittorio Bongiorno e Cristiana Mangani raccontano sul Messaggero a pagina 11 che è stato espulso dall'Italia l'amico di Amri, che cercava l'indirizzo dei poliziotti, vale a dire Luca Scatà e Cristian Movio, i due poliziotti che hanno fermato e ucciso Anis Amri. Ebbene, trovare i poliziotti, soprattutto con una costante ricerca via internet per minacciarli o forse peggio, era l'ossessione di Hisham Al-Abi, 37 anni, regolare, tunisino, residente con regolare permesso di soggiorno in Italia dal 2011, è stato espulso proprio perché aveva contatti con Amri e cercava ora l'indirizzo degli agenti che lo avevano, che lo hanno ucciso. E beh, espulso. Torniamo alla cronaca. Vi segnalo due pagine molto interessanti a firma Andrea Galli sul Corriere della Sera. Riguarda, cari genitori, leggetele tutti perché davvero sono inquietanti a tratti, ma anche interessanti. I liceali nel business dello spaccio di droga. Pagina 8 e 9 del Corriere della Sera, l'inchiesta di Andrea Galli. Intanto l'ultima sgominata è quando è stato arrestato Massimo Marzio, 47 anni, al discreto pedigree criminale. Ha ritrovato a casa sua una grande quantità di hashish e hanno scoperto che lui riforniva vari liceali che erano in grado di preparare, dividere, spacciare, e poi tornavano da lui consorziandosi, trattando la sostanza, sapendo come scaldarla, frazionarla, conoscendo le tecniche di conservazione, custodendola, prendendo le precauzioni per piazzarla senza farli sorprendere, insomma veri e propri spacciatori al liceo, tra i compagni di classe. E questa è solo l'ultima delle inchieste e delle vicende e degli spacci sgominati a Milano. Ma per esempio è stata trovata anche una quantità di ossicodone, un oppiaccio con capacità superiore a eroina e morfina, che in genere viene somministrato ai malati terminali di cancro e che invece è stato trovato in tasca da alcuni studenti, sempre a Milano. Insomma, due pagine di inchiesta sui liceali e il business dello spaccio sul Corriere della Sera. Vi segnalo dal mondo del calcio questa storia di razzismo, gli insulti razzisti in campo nei confronti di un giocatore, Mbaye Mamadou, accolto al grido di negro di M durante una partita di terza categoria, è stato difeso da un compagno il quale ora rischia la vista perché è stato preso a pugni. Insulti razzisti in campo, picchiato un calciatore, ho difeso un compagno, ora rischio un occhio. Mi sono vergognato, racconta Gianluca Cigna, mi sono vergognato al posto di chi pronunciava quelle parole, e cioè negro di M, nei confronti del mio compagno, ho tentato di difenderlo, sono stato picchiato e ora rischio un occhio. Succede durante una partitella di calcio, e Repubblica racconta con Erika Di Blasi questa vergognosa storia. Va bene, siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoli qua, tornano i gattini. Con una grande notizia per la mia zen. Sul giornale, rivincita del gatto sul test di intelligenza. Il suo cervello è pari a quello del cane e lo studio di scienziati giapponesi ribalta la convinzione della supremazia dei cani. I gatti capiscono tanto quanto i cani. Ma chi se ne frega!